Coffee Break Italian, Season 2, Episode 32. Buongiorno a tutti e benvenuti a Coffee Break Italian. Io sono Mark. Salve a tutti, io sono Francesca. E siamo tornati con un altro episodio per voi. This is another episode of Coffee Break Italian, the podcast, the language course which helps you learn Italian in your coffee break, or perhaps in the car, or at the gym, or while you're walking the dog, or doing the dishes. Wherever you are, you can be learning Italian with us. Allora, Francesca, come stai? Io benissimo, Mark, grazie. E tu, come stai? Benissimo. Sai perché? Dimmi. Perché oggi c'è il sole. Sì, oggi è una giornata bellissima qua in Scozia. Sono contenta di essere tornata dall'Italia e aver trovato il sole. Il sole sì, però il caldo no. Il caldo no, ma non si può avere tutto. non fa molto freddo, ma non fa caldo comunque. No, però è settembre, quindi è settembre. Non possiamo lamentarci, dai. Esatto. We cannot complain. Ok. In our previous episode, we had the first installment of our new soap opera, La Mia Estate, sì. Mia's Summer or My Summer or something like that. And we are following the story of Mia and her father, who are off to spend the summer in Italy with Mia's friend Anna. And today we'll be listening to the next installment in this story. Allora, Francesca, sei pronta? Prontissima. Cominciamo? Sì. Mettiamoci al lavoro. Allora, Francesca, puoi riassumere l'episodio precedente? Certo, riassumo in italiano, va bene? Perfetto. Allora, nell'episodio precedente abbiamo conosciuto Mia e Riccardo, suo padre. Mia vuole andare in Italia dalla sua amica Anna per migliorare il suo italiano. Anna vive a Trento e sua mamma gestisce un campeggio. Il padre di Mia, Riccardo, è iperprotettivo e anche un po' geloso, così ha deciso di andare in Italia con sua figlia. Lui vuole anche comprare una casa in Italia e quindi alla fine decidono di partire insieme. Ok, Francesca, you weren't holding back there with your speed of delivery? Our listeners are so good. I'm sure they understood everything. Of course, lots of what you said was reusing words that we learned in that first episode, things like iperprotettivo for poor Riccardo. You did use one word that I think is quite interesting, and it's gestisce. Gestisce, from verb gestire, to run a business. Yeah. Can you use to manage? Is it to manage as well, gestire? Sì. Sì. But it's not gesticolare. No, gesticolare is something else. What the Italians do when they sì. talk. They gesticulate, they use their hands to talk. But gestire, to run or to manage possibly in certain situations. Allora, sentiamo adesso cosa succede in questo episodio. Va bene, sentiamo. Mia, svegliati, siamo quasi arrivati. Oh wow, are those mountains the Dolomites? Sì, sono le Dolomiti. Che belle, vero? Do you think Anna and I can go hill walking there? Non so, forse è un po' pericoloso e tu sei ancora piccola per andare da sola. Oh papà, ho 20 anni, non sono più una bambina. Ok, ne parliamo poi. Ora, allaccia le cinture perché stiamo per atterrare. Vuoi darmi la mano? Mamma mia, papà, how many times do I have to tell you? What's the expression again? Neanche per sogno. È lunedì 12 luglio e Riccardo e Mia sono a bordo dell'aereo che li porterà all'aeroporto di Verona, l'aeroporto più vicino a Trento. Entrambi non vedono l'ora di atterrare nella città di Romeo e Giulietta, dove ci saranno ad aspettarli Anna e la mamma, la signora Maria. Riccardo è felice e non vede l'ora di trascorrere una lunga vacanza in Italia con sua figlia. Anche Mia è felice, ma pure un po' nervosa per questa nuova avventura. Mia dal finestrino riesce ora a vedere le case variopinte e anche la famosa Arena di Verona. Fra poco potrà riabbracciare Anna e pianificare la loro fantastica estate. Anna e Mia hanno tante cose da raccontarsi, in inglese e in italiano, non importa, l'importante è essere di nuovo insieme. Papà, there's Anna with her mom. They're over there. Mia, adesso siamo in Italia. When in Rome, do as the Romans do. Quindi devi parlare in italiano. Anna. Mia, ciao, finalmente. Come stai? Oh, Anna, quanto tempo. Sto benissimo. Sono felice di vederti. Anch'io, non mi sembra vero. Mia, questa è mia mamma, Maria. Salve, come sta, signora? I'm sorry, my Italian isn't very good, but I am so happy to meet you. We actually kind of met on Skype when Anna was in Scotland. Sì, mi ricordo. Non sei cambiata affatto. E questo è mio padre Riccardo. Piacere di conoscerla, signora Maria. Grazie per essere venuta ad aspettarci. Questi crisantemi sono per lei. Ah, sono bellissimi. Non doveva disturbarsi. Ma com'è andato il viaggio? Sì, tutto bene, grazie. Io ho letto un po' e mi hai dormito tutto il tempo. Mia dorme sempre come un ghiro. Un ghiro? What? What does that mean? Ghiro is a dormouse and dormire come un ghiro means to sleep a lot. Beh, non dormirai molto in queste vacanze, Mia. C'è molto lavoro da fare al campeggio. E lei, signor Riccardo, che programmi ha per le vacanze? Sono venuto in Italia perché vorrei finalmente comprare una casa dove Mia ed io potremo passare le nostre vacanze in futuro. Ah, Anna non mi aveva detto niente. È solo un sogno per il momento, ma adoro l'Italia e chissà, un giorno potrei venire a viverci. Beh, sognare non costa niente. Povero Riccardo non fa una bella figura con la signora Maria. Infatti in Italia i crisantemi tradizionalmente sono considerati fiori dei morti. Di solito gli italiani portano questi fiori al cimitero in occasione del giorno dei morti, il 2 novembre. Per questo non sono un regalo molto appropriato. La signora Maria però è molto gentile. Non vuole offendere i suoi ospiti, quindi non dice niente e cambia argomento. Dopo un viaggio di un'oretta circa, finalmente arrivano all'albergo, dove dormirà Riccardo. Tutti si salutano e Riccardo ovviamente fa mille raccomandazioni a Mia, che non vede l'ora di essere un po' libera. It's so good to be here, Anna, and I'm so excited about the job. Me too, anch'io. Vedrai, ti piacerà tantissimo. E poi c'è una sorpresa. Lavorerai con Giorgio, un ragazzo molto simpatico che studia lingue con me all'università. I'm working with an Italian guy. Sembra interessante. But please don't tell my dad. Ma dai, Mia. Giorgio è un bravo ragazzo. Mia madre conosce bene la sua famiglia e poi... Sai che il modo migliore per imparare una lingua straniera è conoscere qualcuno del posto. Anna, I know what you're suggesting. Ah, guarda, c'è Giorgio. Giorgio? Giorgio? Vieni qui un attimo, per favore. Giorgio, ti presento Mia, la mia amica scozzese di cui ti ho tanto parlato. Lavorerete insieme? Piacere. Nice to meet you, Mia. Nice to meet you too, Giorgio. Okay, our second episode. It sounds like some interesting things are going to happen. Sì, new characters. New characters, yeah. We've got Maria, who's la mamma di Anna. E anche abbiamo Giorgio. Sì, interessante, Giorgio. Forse, sì. Okay. So that is Anna's friend. I think she studies with him. And obviously she was introducing Giorgio to Mia at the end of the episode. Mia sounded delighted to meet Giorgio. That's all we'll say just now. I'm sure you've guessed where this is going. Anyway, moving on. Non spoilerare. Noi non spoileriamo. Bravo. Okay, I think what we will do is just talk through what happens in this episode and then we'll go through each segment in turn, each sort of scene of the episode. First of all, Mia and her dad are in the plane and they're talking about arriving in Italy. And of course, he's encouraging her to speak in Italian. And then they arrive at the airport to meet Anna and her mum. And Riccardo makes a little bit of a faux pas, doesn't he? Sì, crisantemi. Not so good. Che he's obviously disastro. Forgotten anything he ever learned about Italian culture. Okay, and then they arrive at the campsite. And at that point, they talk a little bit about the chores and so on, I compiti. And then Giorgio arrives to meet Mia at the end of the episode. Sì. So let's go through the episode in detail now. And we're going to listen to each segment and then we'll talk a little bit about the language in each segment. Benissimo. Mia, Mia, svegliati, siamo quasi arrivati. Oh wow, are those mountains the Dolomites? Sì, sono le Dolomiti. Che belle, vero? Do you think Anna and I can go hill walking there? Non so. Forse è un po' pericoloso e tu sei ancora piccola per andare da sola. Oh papà, ho 20 anni. Non sono più una bambina. Ok, ok, ne parliamo poi. Ora, allaccia le cinture perché stiamo per atterrare. Vuoi darmi la mano? Mamma mia, papà. How many times do I have to tell you? What's the expression again? Neanche per sogno. Allora, Mark, if you remember in the first episode, I told you that Mia and her dad wouldn't be in Scotland for long, and now they're almost in Italy. Sì, Riccardo starts in this episode by waking up Mia and saying, siamo quasi arrivati. So, arrivare, to arrive, and siamo quasi arrivati, we have almost arrived, sì. But of course it's an essere verb, isn't it? Sì, arrivare, it's a verb of motion, okay. So essere. They're obviously in the plane and they can see the Dolomites, the range of mountains that is at the north of Italy. Che belle, le Dolomiti. We have some useful vocabulary here, which we can use when flying. Okay, so let's take a look at this vocabulary. Ad esempio, allaccia le cinture. So that would be fasten your seatbelt. Sì. Stiamo per atterrare. We are about to land, the kind of thing you may hear the flight attendant saying. And I have to say that Mia sounds completely disgusted when her daddy asks her to hold his hand as they land, she says. Sì, lei dice, neanche per sogno. Not even in your dreams, you sì. Know. Forget that. Don't even go there. Not even for a dream, not even in your dreams. Okay, let's listen to the next section in which our narrator explains the next part of the story. È lunedì 12 luglio e Riccardo e Mia sono a bordo dell'aereo che li porterà all'aeroporto di Verona, l'aeroporto più vicino a Trento. Entrambi non vedono l'ora di atterrare nella città di Romeo e Giulietta, dove ci saranno ad aspettarli Anna e la mamma, la signora Maria. Riccardo è felice e non vede l'ora di trascorrere una lunga vacanza in Italia con sua figlia. Anche Mia è felice, ma pure un po' nervosa per questa nuova avventura. Mia dal finestrino riesce ora a vedere le case variopinte e anche la famosa Arena di Verona. Fra poco potrà riabbracciare Anna e pianificare la loro fantastica estate. Anna e Mia hanno tante cose da raccontarsi, in inglese e in italiano, non importa. L'importante è essere di nuovo insieme. Okay, so our narrator, Francesca, is moving things on, explaining the story and explaining, of course, that Mia and her father have now arrived in Italy. Yes, the narrator is giving us a lot of useful information. E ho una domanda, Mark. Dimmi. E ti ricordi che giorno è? Certo, lunedì 12 luglio. Bravissimo, lunedì 12 luglio. E Mark, perché Mia e suo padre vanno a Verona in aereo? Allora, vanno a Verona perché Verona è nel nord Italia, sì. E poi andranno poi a Trento, sì. E Verona è l'aeroporto più vicino a Trento. Perfetto, sì, okay. Sì, sì. That whole area, north of Verona. up towards Bolzano, Brennero, sì, and then the Austrian border on, sì, towards Innsbruck. Bellissimo. Yes, absolutely beautiful. I definitely recommend that. And of course Verona itself is beautiful too. Sì, è bellissima anche Verona. Io non sono mai andato a Trento. No, dobbiamo organizzare un coffee break Trento. Un coffee break Trento. Comunque, so una scioglilingua. Ah, uno scioglilingua. Sì, vai. 33 trentini entrarono dentro Trento, tutti 33 trottellerando. Bravissimo. So basically 33 people from Trento, sì, entered Trento, all 33 of them trotterellando. Trotting. Yeah. We've mentioned that before, I think, in an early episode. We did, but it's always useful to practice the R with this tongue twister. Absolutely. So Trento is the location of the campsite where Anna and her mum have the campsite. Okay. Mark, un'altra domanda. How would you describe the mood of Riccardo and Mia in this first extract? Different from each other. Definitely. Allora, Riccardo è felice. Sì. E non vede l'ora di trascorrere una lunga vacanza in Italia. Sì, trascorrere. What a nice verb, Mark. To spend, yeah. E Mia è felice? Anche Mia è felice, ma pure un po' nervosa. Beh, direi che è normale nella sua situazione, però sicuramente è felice perché Verona, Trento sono città così speciali. Sì, come dice il narratore o la narratrice. La narratrice? Mia vede le case variopinte. These are the multicolored houses. La famosa Arena di Verona. Where all the operas take place, sì, wonderful place. E fra poco potrà riabbracciare la sua amica Anna. She'll soon be able to re-embrace her friend Anna. Let's think for a moment about this fra, which we know means between, but that's not the case in this context. Yes, you're right, Mark. And we discussed this several times when dealing with the prepositions. And as you said, fra means between, but it also means in X amount of time. For example, fra poco. Yeah, in a short while. Esatto. Fra poco, in a little while. And the whole section finishes on something of a sentimental note. Sì, perché Anna e Mia hanno tante cose da raccontarsi, in inglese e in italiano. Non importa, l'importante è essere di nuovo insieme. So they've got so many things to tell each other. Raccontarsi, it sounds as if they're telling them to themselves, sì, to one another. But to one another, it's reciprocal. Sì. Raccontarsi, and that's both in English and in Italian, it doesn't matter. But the most important thing is that they are, once again, together. Good friends spending time together. Okay, so Mia and her father arrive at the airport. They're coming out of Yarivi. Yarivi, sì. And Anna and her mother are waiting for them. Let's listen to this section of our play. Papa, there's Anna with her mom. They're over there. Mia, adesso siamo in Italia. When in Rome, do as the Romans do. Quindi devi parlare in italiano. Anna. Mia, ciao, finalmente. Come stai? Oh, Anna, quanto tempo. Sto benissimo. Sono felice di vederti. Anch'io, non mi sembra vero. Mia, questa è mia mamma, Maria. Salve, come sta, signora? I'm sorry, my Italian isn't very good, but I am so happy to meet you. We actually kind of met on Skype when Anna was in Scotland. Sì, mi ricordo. Non sei cambiata affatto. E questo è mio padre Riccardo. Piacere di conoscerla, signora Maria. Grazie per essere venuta ad aspettarci. Questi crisantemi sono per lei. Ah, sono bellissimi. Non doveva disturbarsi. Ma com'è andato il viaggio? Sì, tutto bene, grazie. Io ho letto un po' e mi hai dormito tutto il tempo. Mia dorme sempre come un ghiro. Un ghiro? What? What does that mean? Ghiro is a dormouse, and dormire come un ghiro means to sleep a lot. Beh, non dormirai molto in queste vacanze, Mia. C'è molto lavoro da fare al campeggio. E lei, signor Riccardo, che programmi ha per le vacanze? Sono venuto in Italia perché vorrei finalmente comprare una casa dove Mia ed io potremo passare le nostre vacanze in futuro. Ah, Anna non mi aveva detto niente. È solo un sogno per il momento, ma adoro l'Italia e chissà, un giorno potrei venire a viverci. Beh, sognare non costa niente. Che bello, Mark! Finalmente Mia e Riccardo sono in Italia. Io veramente non vedo l'ora di sapere come continuerà questa storia. Anch'io, ma chissà se Mia deciderà di parlare in italiano prima o poi. Ma sì, dai, deve solo, come diciamo in italiano, scaldarsi un pochino. E suo padre è troppo esigente. Le dice, devi parlare in italiano. You have to speak Italian. It seems too much to me. Ma luckily Maria and Anna are so nice and make Mia feel at ease. Absolutely. Maria dice, non sei cambiata affatto. You haven't changed a bit. Esatto. Cambiata is the past tense of cambiare. And it takes essere in the past because, as the verb itself says, it's a verb of change. And what can we say about the encounter between Riccardo and Maria? Well, our listeners will have noticed that they are using the formal way of speaking, Absolutely. The lei. For example, just to explain what it is again, if I meet a friend of a friend for the first time, I would say piacere di conoscerti because it's among friends in a way. But in this case, conoscerti becomes conoscerla, the formal way of speaking, where la at the end of conoscere is the formal way to say tu or you, the formal you, basically. Yeah, and these are pronouns. These are direct object pronouns, yes. And they're a little bit tricky, but we'll be seeing more examples of these as time goes on. Uh-huh. The same thing happens, or we hear this formal form again, but it's more about a reflexive pronoun that time, isn't it? I'm thinking when she says, oh, you shouldn't have bothered. Ah, sì, non doveva disturbarsi, as opposed to non dovevi disturbarti in the informal way of speaking. It all sounds a bit confusing, but it will be explained more in future lessons and in our notes and so on to accompany this episode. Okay, let's talk about those chrysanthemums. Oh, mamma mia, I chrysanthemi. This is really funny for me. Basically, in Italy, we use chrysanthemums normally for the dead, per i morti, so in cemeteries, basically. And it's a bit awkward to give them as a present, or even worse, receive them. yeah, it doesn't. You don't really know what someone's trying to tell you. Ah, exactly. I think it's the same in France. So just be warned if you're ever thinking about giving chrysanthemums as a present. Absolutely. To anyone involved in Italian things or French things, just check it out before you do. Yes. But back to our episode. Mark, did you get what Riccardo and Mia said they did on the plane? Mm-hmm. Riccardo ha letto. Sì. Mia ha dormito tutto il tempo. And there's a lovely phrase that Anna used to describe Mia's sleeping habits. Sì, Anna said Mia dorme sempre come un ghiro. Ghiro is a dormouse. A dormouse, yeah. In inglese, in English, and dormire come un ghiro means to sleep a lot. However, Maria warns Mia that she won't be sleeping a lot during the summer using a nice future tense. Did you get it, Mark? I did indeed, yeah. It's going to be a busy summer, so Maria says, non dormirai molto in queste vacanze. Bravissimo. And did you get why she won't be sleeping a lot? Sì, certo, c'è molto da fare al campeggio. Bravissimo. There's a lot to be done at the campsite. Molto da fare. That brings up something that I wanted to mention to our listeners, and that is an episode of our other show, Walk, Talk and Learn Italian. And if you've not yet come across Walk, Talk and Learn Italian, that is a video show that we've launched on YouTube, and there'll be more episodes coming soon, where, well, at the moment I have been in Italy and Francesca's in the studio, and we're explaining the things that we see on signs and the things that we see on posters and so on. And you must check that out if you've not come across it yet. So head to YouTube and either look for the Coffee Break Languages channel or simply search for Walk, Talk and Learn Italian, and you'll see an episode all about da, sì, using da with an infinitive in this way. It's very useful. Okay, time is running out, and we can't go into all the details here, but there's one nice final idiom from Riccardo. Sì, sognare non costa niente, which literally means dreaming costs nothing. and it's referring to Ricardo's dream of buying a house in Italy. It doesn't harm to dream. It doesn't cost anything to dream. And if you are being teased by someone about your ideas about the future and so on, then you can always say, sognare non costa niente. Okay, we're going to take a short break, but there are still a little few more things to talk about in this episode. And we've got two more sections to deal with, but we'll do that after our break. Interrompiamo questa trasmissione per una comunicazione importante. If you'd like to make faster progress with your Italian, don't forget that you can use the premium version of this course, which features video versions of the lessons, comprehensive lesson notes, and bonus listening materials. Allora, cosa aspetti? What are you waiting for? If you'd like to take your Italian to the next level, go to coffeebreakitalianplus.com. Okay, we're back and we're listening to our second episode of our soap opera, in which Ricardo and Mia have just arrived in Italy and have been met by Anna and Anna's mother. Now, our next section features our narratrice, and she explains a little more about the whole chrysanthemums thing. We've mentioned that already. So let's have a listen now. Il povero Riccardo non fa una bella figura con la signora Maria. Infatti, in Italia, i crisantemi tradizionalmente sono considerati fiori dei morti. Di solito gli italiani portano questi fiori al cimitero in occasione del giorno dei morti, il 2 novembre. Per questo non sono un regalo molto appropriato. La signora Maria però è molto gentile, non vuole offendere i suoi ospiti, quindi non dice niente e cambia argomento. Dopo un viaggio di un'oretta circa, finalmente arrivano all'albergo dove dormirà Riccardo. Tutti si salutano e Riccardo ovviamente fa mille raccomandazioni a Mia, che non vede l'ora di essere un po' libera. Okay, now coming back to this chrysanthemums thing, we've already mentioned it, but sì, it's a good opportunity to look at that phrase, fare bella figura, something again we've spoken about in a previous episode of Coffee Break Italian. I think we even had a caffè culturale once on la bella figura. We did indeed, yep. It's something I would say quintessentially Italian, la bella figura. It means to make a good impression, to get things right in a way that the others would think highly of us. So basically what Riccardo did not do. I'm sure he will soon learn, and he's obviously molto stanco dopo il viaggio. Sì, è vero. And the narrator says, finalmente arrivano all'albergo dove dormirà Riccardo. Okay, so finally, not finally, but at long last, they arrive at the hotel where Riccardo will sleep. Dormirà, another future tense. And that, of course, means that Mia is eventually free, at sì, long last. Sì, Mia non vede l'ora di essere un po' libera. Finalmente. Finalmente. Okay, in our final section, we hear Mia and Anna at the campsite talking about their plans, and this is also when we meet Giorgio. Let's have a listen to this final section of this episode. It's so good to be here, Anna, and I'm so excited about the job. Me too, anch'io. Vedrai, ti piacerà tantissimo. E poi c'è una sorpresa. Lavorerai con Giorgio, un ragazzo molto simpatico che studia lingue con me all'università. I'm working with an Italian guy. Sembra interessante. But please don't tell my dad. Ma dai, Mia. Giorgio è un bravo ragazzo. Mia madre conosce bene la sua famiglia e poi... Sai che il modo migliore per imparare una lingua straniera è conoscere qualcuno del posto. Anna, I know what you're suggesting. Ah, guarda, c'è Giorgio. Giorgio? Giorgio? Vieni qui un attimo, per favore. Giorgio, ti presento Mia, la mia amica scozzese di cui ti ho tanto parlato. Lavorerete insieme? Piacere. Nice to meet you, Mia. Nice to meet you too, Giorgio. Okay, so who knows what the future is going to bring for Mia and Giorgio. Finally, Mia is free. She's free to be on her own with her friend, and she gets to see the campeggio, the campsite. Sì. E c'è anche una sorpresa per Mia. Infatti Anna dice: lavorerai con Giorgio, un ragazzo molto simpatico che studia lingue con me all'università. Riccardo will not be pleased to hear that his daughter will be working with Giorgio, a very nice guy who studies modern languages with Anna at university. And how does Anna describe him, Mark? Un bravo ragazzo, a decent guy. Sì. E poi Anna dice una cosa molto, molto italiana. Ah sì, è vero, ho capito a cosa ti riferisci. Mia madre conosce bene la sua famiglia. Everything's fine then, that means a lot in Italy. It means a lot, yes. E Anna dà anche un consiglio da esperta linguistica. Sì, Anna sa molte cose. Lei dice il modo migliore per imparare una lingua straniera è conoscere qualcuno del posto. Yeah, so to get to know someone of the area, to get to know a local. Sì, sì. That's a very good way to practice your Italian. So if our listeners are wondering how best to practice the Italian, get yourself meet to Italy locals. And meet the locals. Yeah, absolutely. Okay, so Anna manages to introduce Mia to Giorgio. Sì, lei dice, ti presento Mia, la mia amica scozzese di cui ti ho tanto parlato. I love this. It's a fantastic way to finish our episode here. Di cui, a beautiful relative pronoun there. In Italian, to talk about something or someone is parlare di, so with the preposition di. And whenever we have a preposition followed by the relative pronoun che becomes cui. So we cannot say di che, but we have to say di cui. In this case, about whom. So di cui, la mia amica scozzese, di cui ti ho tanto parlato. My Scottish friend, about whom I have spoken so much. Sì. Fantastic. Okay, well, that is where we're going to leave this episode, and we'll be picking up on lots of the language in our bonus episode too. Okay, so that bonus episode is part of our bonus materials for Coffee Break Italian. In these final 10 episodes of the series, we are changing the bonus episode slightly, and we're going to be talking in detail about every line of the script of our soap opera here. So basically, we go through the whole script, we go through each line, we talk about it, we give you an explanation of it, and we talk about the vocabulary, the grammar, and the structures used in there, giving you further examples. So there's the bonus audio episode, there are also the lesson notes, and our video version where you see the words on the screen of your device, all available as part of the premium version at coffeebreakitalianplus.com. Yes, and don't forget to join the Coffee Break Italian conversation on social media. You can put your language skills to the test and build your cultural knowledge every week with our Facebook challenges. And join us on Twitter, we are at Learn Italian, and see behind the scenes with the whole Coffee Break team on Instagram. Just search for Coffee Break Languages. Now, we also mentioned earlier our Walk, Talk and Learn Italian episodes on YouTube. And that's an entirely free video episode, a video series. You can find them on the Coffee Break Languages channel. And don't forget to subscribe to the channel. That way you'll be notified whenever we post a new video. So that's Walk, Talk and Learn Italian on YouTube. More Italian content for you. Okay, we'll be back again soon with our next installment of our soap opera, La Mia Estate. That's coming up very soon. Until then, grazie molte e arrivederci. Alla prossima, ciao! You have been listening to a production of the Coffee Break Academy for the Radiolingua Network. Copyright 2017, Radiolingua Limited. Recording copyright 2017, Radiolingua Limited. All rights reserved.